Nella notte tra il 19 e il 20 agosto del decorso anno, i priisti Cruz, Lopez e Abarca, dopo un breve diverbio, ferivano a morte lo zapatista Tepecatl. Da un'inchiesta della polizia criminale indetta il 7 settembre del decorso anno, è emerso che la pallottola ha perforato il polmone sinistro, con conseguente emorragia letale. L'allegria in este día, quando pose tu alma mia la ultima piedra sobre mi corazón, si me equivocara otra vez, si me olvidara de cuánto te amé, no te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre aquel cajón, se adelita. Avanti! Buongiorno, signor giudice. Buongiorno, signor Perez. L'ho pregata di venire da me per la faccenda Cruz, Lopez e Abarca. Devo dirle che la cosa non mi sembra molto chiara, Da lì a T vedo che il luogo nel quale è accaduto il fatto, il villaggio di Chenal, è nella regione zapatista. Cruz, Lopez e Abarca fanno ancora parte del Partito Rivoluzionario Istituzionale PRI? E in conseguenza del fatto al partito non è parso di dover prendere provvedimenti disciplinari contro i tre? Le sarei grato, Perez, se potesse mettermi un po' al corrente della cosa. Nella notte tra il 19 e il 20 agosto del decorso anno, i priesti Cruz, Lopez e Abarca, dopo un breve diverbio, ferivano a morte lo zapatista Tepecatl. Da un'inchiesta della polizia Polizia criminale, criminale indetta indetta il il 7 7 settembre settembre del del decorso decorso anno, anno, è è emerso. emerso. Caro Perez, tutto questo risulta già dagli atti. L'atto di accusa è il più striminzito e il meno accurato che io abbia mai visto. Nonostante ciò, quello che lei mi ha detto c'è. Speravo che fosse in grado di dirmi qualche cosa sul retroscena della faccenda. Sì, signor giudice. Allora? Non c'è nessun retroscena, signor giudice. Perez, non mi verrà mica a dire che la cosa è proprio così chiara? No, chiara non è, signor giudice. Io ho famiglia. Anche io, Perez. Sì, signore. Tepecatl era un indigeno zapatista, lei lo sa. Basta il nome. Sì, signore. La stampa ha detto che doveva esserci di mezzo una questione di violenza etnica. E chi c'era implicato? La figlia dello zapatista Tepecatl ha 17 anni e dicono che sia graziosa. È stata fatta un'inchiesta d'ufficio? No, questo no. Poi la chiacchiera ha smesso di circolare. E chi l'aveva messa in giro? Un vescovo. Un certo Monsignor Sepulveda. Evidentemente la famiglia di Tepecatl non era ben vista nel villaggio. Così abbiamo creduto, ma poi ha ritirato la denuncia. Ciò nonostante, questo potrebbe spiegare che nel villaggio ci fosse un certo malumore contro lo zapatista Tepecatl e quei ragazzi abbiano potuto agire sotto l'impulso di un'indignazione. Non credo, signor giudice, Cosa non crede? che Cruz, Lopez e Abarca si scaldino molto per un stupro di un indigena. Ah, perché no? Perché il nome del messicano compromesso in questa brutta faccenda non compare mai negli atti. Dio sa chi era. Potrebbe stare in qualunque parte dove si possono trovare i messicani senza discendenza indigena. E dove si trovano i messicani senza discendenza indigena in Chiapas? Insomma, il partito desidera che della cosa non si parli, capito? E perché me lo dice allora? Perché lei mi ha detto che è una famiglia. Insomma, di questa cosa non ne parli neanche lei. Le direttive dall'alto non si contraddicono. Già, capisco, Sì, capisco, Ma a parte questo non capisco granché. Meno si ci capisce, meglio è, detto fra noi. Fa presto lei a parlare, ma io devo pronunciare la sentenza. Certo. Non rimane che l'ipotesi di un attacco diretto da parte dello zapatista Tepecatl. È anche la mia opinione, signor giudice. E in che modo sono stati provocati questi priisti? Secondo quanto affermano dallo Sabatista de Pecatel e da un vecchio di nome Hernandez che passava per strada, dicono che i fristi volevano andare a bere una tequila e che quando passarono davanti alla cassa dello Sabatista de Pecatel, lui e il vecchio Hernandez li avrebbero aggrediti fisicamente. Pues, ¿qué pasa, abuelito? ¿Cómo estás, pinche pendejo? Pues, ¿qué pasa, cabrón? ¿Qué tienes, pinche pendejo? ¿Qué me estás mirando así? Pues, ¿qué miras, güey? ¿Tampoco crees que soy imbécil? Pues, ¿qué te pasa, chingón? No mames, güey, chinga tu madre. Pues, ¿qué pasa, huevón? Ven, pues, huevón. ¿Qué pasa, mono culiao? ¿Qué tenéis perkin y la concha de tu madre? ¿Qué miráis, sabo, concha de tu madre? ¿Qué tienes los monos reculiao? ¿Qué, güey, te grabáis vos, ¿qué? Feo, ¿qué estáis grabando, concha de tu madre? ¿Qué tanta guay? ¿Qué tanta guay? Te bronceada, ¿dónde te fuiste a pasear, fe? La concha de madre, que te mate. Conta, culia, ven pa' acá, vos, concha de madre, te ves, te reviento, mona, reculia. ¡Te cagar, rechucho de tu madre! Ma, aparte de esto, cosa habrán fatto? Testimoni non ce ne saranno, vero? Altro che? Il parroco del villaggio, un certo padre Baltasar, dice che stando nei paraggi, vide Hernandez nell'atto di attaccare i fristi. E il parroco, dopo la morte di Tepecatel, quella stessa sera, è stato nella sede del partito in presenza di Cruz, López e Abarca, affermando che il vecchio Hernandez parlava molto male del PRI. E questo padre Baltasar, è il parroco o il vescovo? Il parroco. E il vescovo chi è? Monsignor Sepúlveda. Ah, sì, sì, adesso la cosa è chiarissima. Salterà fuori che lo Sabatista de Pecatel ha provocato i pristi. Evidentemente quell'uomo si è reso sgradito a tutti. Non mi ha detto che per la scandalosa condotta della sua famiglia? Una relazione sessuale interrazziale? Lo Sabatista de Pecatel ha ricevuto una denuncia dal vescovo in persona? Sì, Perez. So già che non bisogna sottolineare l'accaduto, ma per quanto riguarda ciò, si dovrebbe comunque pensare di agire al più presto a favore di un'espulsione immediata. La ringrazio, Perez. Mi ha reso un vero servizio. Chiarissimo, è chiarissimo. Posso parlarle un momento? Può. Si tratta della causa Cruz López Abarca. Ebbene? Beh, finora la faccenda mi sembra abbastanza chiara. Già, non capisco, detto sinceramente, perché la procura abbia instaurato il giudizio. Ma come? Il fatto ha avuto una cattiva ripercussione nel paese e alcuni membri del governo hanno ritenuto opportuno aprire un'istruttoria. Ma io non ci vedo altro che un caso molto chiaro di un attacco sabatista. Ma che sta dicendo, Ruiz? Non penserà che i nostri atti d'accusa per il solo fatto di aver assunto un carattere un po'... laconico. Ma laconico. Non meritino di essere studiati a dovere. Io lo sapevo che con tutta l'ingenuità del mondo lei avrebbe optato per la prima soluzione capitatale a tiro. Ma per favore non dia passi falsi. Ahia! Non capisco assolutamente niente. Non vorrà mica dirmi che vuole discolpare lo Sabatista de Pecatel. E come se lo voglio? Quello non ci pensava proprio ad attaccare. Non penserà che perché un indigeno zapatista io non possa trovare giustizia in un tribunale messicano? No. Lasci che le dica, Ruiz, che le opinioni che lei sostiene sono alquanto straordinarie. E io non ho sostenuto nessuna opinione. Mi sono semplicemente fatto l'idea che Cruz, López e Abarca siano stati aggrediti. Sì! Ma non dallo zapatista. No? Chi li ha attaccati è stato quel vecchio... come si chiama? Hernandez? Ma cara Leiva, nel suo atto di accusa non c'è cenno di tutto questo? È che... alla procura non abbiamo saputo altro che Tepecatl è stato ucciso da un gruppo di pristi. Ma se padre Baltasar all'interno dell'istruttoria arriva e dice che la pallottola che ha perforato la finestra di casa di Tepecatl e l'ha ucciso è partita perché quel vecchio, come si chiama? Hernandez. Oh, Hernandez, grazie. No, prego. Hernandez ha provocato i pristi? Beh, bisognerà pur tenerne conto, non trova? E padre Baltasar avrebbe detto questo? Sì. Ma se Monsignor Sepulveda voleva cacciare lo sabatista De Peccatile e la sua famiglia dal paese... No, no, no, no, non lui che è un semplice prete di campagna non rilascerà certo dichiarazioni contro il volere del vescovo. Ma che diavolo va dicendo adesso contro padre Baltasar? Forse lei non sa che è protetto dal vescovo. E il vescovo, a sua volta, ha relazioni molto influenti nel Ministero di Giustizia. Mi permetta di consigliarle di tenerlo in conto di persona insospettabile. Ciò che faccio, eh? Però il vescovo già l'aveva denunciato un'altra volta per un altro motivo. Ma questo non significa niente. Di fatto ha ritirato la denuncia. Questo vuol dire che sono giunti a un buon accordo, non le pare? Te Peccato, la famiglia di Te Peccato, padre Baltasar, il vescovo. Non sia tanto ingenuo, Ruiz. Ma cara Leiva, se la Chiesa lo accusa in prima istanza e poi lo protegge, non è poi un affare tanto semplice, eh? Bisogna raccapezzarcisi. E perché cosa ci pagano altrimenti? Un caso maledettamente complicato. Già. Vuole una sigaretta? Grazie. Se davanti al tribunale si dimostrerà che lo sabatista Te Peccatile non provocò, la sua famiglia potrà presentare una richiesta di accusa per omicidio colposo contro il partito. No, innanzitutto non denuncerà tutto il partito, ma solo Cruz, Lopez e Abarca, che sono tre morti di fame. Secondo, quei poveri zapatisti la penseranno due volte prima di denunciare il più grande e potente partito di tutto il Messico. Terzo, il PRI dimostrerà che i suoi sono stati attaccati, che a farlo sia stato uno zapatista o un vecchio. Per loro sarà indifferente, l'importante è lavarsene le mani. Non del tutto, eh? Nella zufa fra il vecchio Hernandez e i priisti è partito un colpo, eh? Sì. E lo sabatista De Peccatile è morto. Già. Il partito non ne uscirebbe perfettamente pulito. E non si può avere tutto dalla vita. E lei non può dar ragione a tutti. Ma mi permetta di consigliarle di ricordarsi che lei ha un principio al quale attenersi, che è stato dettato dal nostro presidente. Giusto, eh? Ciò che giova al popolo messicano. Sì. Già. Bene, bando alle incertezze, lei oramai è al corrente di tutti i retroscena. La cosa non dovrà presentarle più alcun problema. A più tardi, Ruiz. A più tardi, lei va, eh? Mi chiama ancora l'ispettore Perez che sta interrogando i testimoni, eh? Ma senza dare nell'occhio. Va bene. Non ti preoccupare, ci vediamo dopo. Oh, Perez! Lei stava per mettermi in un bel pasticcio con il suo consiglio di considerare la cosa come un attacco da parte dello sabatista De Peccatile. Sembra che il padre Baltasar sia disposto a deporre sotto giuramento che è stato il vecchio Hernandez ad attaccare e non lo sabatista De Peccatile. Certo, così dicono, signor giudice. E che cosa vuol dire con questo "così dicono"? Così dicono che Hernandez abbia salito i pristi. E non è vero? Signor giudice, sia vero o no, noi non possiamo... Mi ascolti bene, eh? Dimentica che siamo in un tribunale messicano? Hernandez ha confessato o non ha confessato? Signor giudice, se vuol sapere, non mi hanno lasciato andare di persona a parlare con lui? Nel verbale di interrogatorio fatto del commissario, è detto che egli avrebbe confessato. Dunque ha confessato. Solo che... Solo che cosa? Hernandez è un ex combattente. Lo fucilarono alle gambe. Sembra che si muova su una sedia a rotelle. Hernández va en el coche, Caroline. Caroline. Hernández va en el coche, Caroline. Caroline. A ver a Te Peccatile, Caroline, cacao, leo, lao. A ver a Te Peccatile, Caroline, cacao, leo, lao. Le cortarán su pelo, Caroline. le cortaran su pelo, Carolín. Luego lo matarán, Carolín Cacao, Leo Lao. Luego lo matarán, Carolín Cacao. Come dunque había potuto atacar el vecchio Hernández, no es molto. Beh, penso che di questi tempi non ci sia bisogno delle gambe per assaltare qualcuno. Potrebbe aver usato pietre. Mi sono fatto l'idea che la Procura Generale desideri assicurare ai priesti questa scappatoia. Più esattamente, questa scappatoia e non un'altra. Sì, signor giudice. E che cosa ha dichiarato la figlia dello Zapatista de Pecatel al riguardo? Che lei non era presente, dice di non sapere come sono andate le cose. Non riusciamo a scucirle niente di più. Probabilmente questo Zapatista de Pecatel era completamente innocente. Sì, signor giudice. E non continui a dire sì, signor giudice, come una macchinetta, eh? Sì, signor giudice. Deve capire che sono un po' nervoso, eh? Io so che lei è una persona fidata e che se mi ha dato un consiglio ci deve essere una ragione, eh? Non le è venuto in mente, per esempio, che il procuratore voglia prendere il suo posto e che perciò le tenda un tranello? Sono cose che oggigiorno succedono spesso. Ammettiamo, per esempio, che lo Zapatista de Pecatel non ha attaccato per primo e che sia morto ingiustamente. Si immagina cosa potrebbe pensare il partito a riguardo? Com'è possibile che uno Zapatista abbia ragione e il partito di governo no? E non solo, la famiglia di Pecatel tenterà di farsi giustizia da sola. Rischiamo così l'intervento dell'intero esercito Zapatista, che come lei sa, gode di un forte appoggio tra il popolo. Alla fine, ci ritroveremo tutti contro. Scusami. Cosa diavolo succede? L'aula è piena di gente. Il corridoio è talmente affollato che non passa più nessuno. E tra la folla ci sono dei membri del partito che dicono di dover passare perché hanno ricevuto l'ordine di assistere all'audienza. Lei li avrà tutti addosso. Se vuole un buon consiglio, sì? Si attacca alla teoria dell'autodifesa e lascia stare i priesti. Va bene, va bene. Grazie mille, Perez. Bisogna che rifletta un po'. E farà bene, signor giudice. Per piacere, vada su dal giudice Gonzales e gli dica che lo prego di scendere un momento da me, eh? Grazie. Ah! Ah! Ma lei qui sta! Oh, oh Maria! Un giorno di questi si dimenticherà la testa. Io? Che cosa ha dimenticato stamattina? Io? Una cosa importantissima. Che? La colazione. Ah, va bene, Maria. Che fatica che ho fatto ad arrivare fino qui. Il palazzo è pieno di membri del PRI per questo processo. Ma gliela farà vedere, dico bene, signor giudice? Sì, Maria, grazie mille. Adesso può andarsene. Anche dal macellaio, dicevamo. Per fortuna che in Messico una giustizia ancora c'è. Uccidere così un povero uomo. Quelli del PRI sono quasi tutti ex criminali. Lo sanno tutti, lo sanno. Lo fanno così per passare una serata diversa. Pure quel povero vecchio, quell'Hernandez, con la sua sedia a rotelle, volevano uccidere pure lui. Lo fanno così, apertamente. Mettono paura a tutti nel villaggio. E quelli che vogliono parlare li tengono. Va bene, Maria, grazie mille. Adesso può andarsene. Ma lei fa farà la cosa giusta. Dico bene, signor giudice? Sì, sì, sì, Maria, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Già, l'avevo detto al macellaio. Per fortuna che in Messico una giustizia ancora c'è. Ruiz! Vaffanculo, ma! Cosa c'è, Ruiz? Ah, volevo discutere con te di una cosa, se hai un minuto di tempo, eh? Già, già. Questa mattina ho una questione un po' seccante, eh? Sì, quella faccenda dei pristi. Come fai a saperlo, eh? Di sopra se ne parlava fin da ieri, una storia noiosa. Ah, e cosa dicevano di sopra? Non ti invidiano? Che cosa hai intenzione di fare? È proprio quello che non so. E non credevo che si parlasse già tanto della cosa. Non credevi? Questo padre Baltazar deve essere un tipo piuttosto autorevole. Pare, sì. Si sa qualche cosa di lui? Quel tanto che basta. Ha relazioni. Molto in su? Molto in su! Se tu assolvi Cruz, López e Abarca, in quanto sono stati attaccati dal vecchio Hernández, vuoi che i pristi non siano soddisfatti? E allora lo Sabatista de Peccato non c'entrava niente all'storia all'interno della risa, eh? Ma è morto, eh? Sì. Gli Sabatisti si rivolteranno contro il PRI, e allora tutti i capi pristi mi saranno addosso, González! Ma se tu non estrometti lo Sabatista, è il padre Baltasar che ti salta addosso sul serio. Non sai che si è tolto dei litfizieti con una ragazza della comunità indigena? Degli sfizieti. Pronto? Signor giudice, non so più come far riservare i posti per il procuratore generale e per il signor presidente. Se almeno questi signori mi avessero avvisato il tempo. Faccia sgomberare due posti e non disturbe più. Ci mancavano anche quelli lì. Il padre Baltasar non può disinteressarsi della morte dello Zapatista de Pecatel. Ha bisogno del silenzio di sua figlia. Ah! Oddio, è ripugnante! Che cosa? Ma che cosa ha fatto a quella poverina? Io non ho detto niente! Ma sì! Che? Era lui il messicano compromesso, eh? Dopo aver peccato... Ruiz! Dopo aver peccato, ha denunciato la famiglia di De Pecatel per cacciarla via del villaggio, eh? Ma quando lo Sabatista De Pecatel è morto, la ragazza lo ha minacciato di dire tutta la verità! E allora la chiesa, con il vescovo a capo, si è inventato questa assurdità dell'attacco da parte del vecchio paralitico, eh? Come può il vecchio Hernández aver aggredito quei tre gorilla reazionari, eh? Oh, sapevo che c'era qualcosa di marcio sotto! Ruiz! Io non ho detto nulla di simile e non capisco davvero come tu possa farmelo dire. Ci tengo a sottolineare che io con tuo padre Baltasar non ho detto una parola. Mi spiace, ma tu mi costringi a parlare così. Ma non hai nessun bisogno, González, eh? Siamo abbastanza amici. Cosa vuoi dire con questo? Siamo abbastanza amici? Io non posso immischiarmi nelle cose tue. Che tu scelga la giustizia o il PRI è una cosa che non mi riguarda. Oggi, ognuno ne ha abbastanza per pensare ai casi propri. Infatti ci penso ai casi miei. Ma non so proprio che pesci prendere. Al posto tuo non griderei tanto forte che non esiste più giustizia, Ruiz. Ma no, che dici, eh? Io non volevo dire questo, eh? Volevo semplicemente dire che quando si verificano certe contraddizioni... Nel nostro paese non esistono contraddizioni! Ma no, no, certo, eh! È quello che stavo dicendo, eh! Non pesare tutte le parole sul bilancino, eh! Perché non dovrei farlo? Sono un giudice io! Se si dovesse pensare ogni parola di un giudice... Io sono pronto ad esaminare accuratissimamente e scrupolosissimamente tutto quanto, Ma che almeno avessero la bontà di dirmi quale decisione deve essere presa in vista degli interessi superiori. Se dichiaro l'innocenza dello Sabatista de Pecatel, andrò contro al PRI. No, contro padre Baltasar. Ah no, no, non mi ci raccapezzo più. E se l'attacco è partito dal vecchio Hernández, allora gli Sabatisti vorranno che... Ah no... Non possono togliermi il posto di lavoro, eh? Non voglio avere niente a che fare con quelli dei PRI. In fin dei conti, io ho famiglia, González, eh? La fa semplice mia moglie, mi dice sempre che semplicemente devo controllare ciò che è veramente accaduto. Se lo facessi, eh? E l'ho fatto! Nel migliore dei casi, mi svelerei in un ospedale psichiatrico, eh? Oh, parlerò dell'aggressione, dell'omicidio. Dello stupro, dei diritti umani, della famiglia, del popolo, della morale, della giustizia, Ma allora cosa vogliono, È ovvio che non condanno il PRI. Ma lo sabatista De Pecatel o il vecchio Hernandez, quale dei due? Oh, come si fa a scegliere tra un vecchio che non c'entra niente nella storia e uno sabatista morto innocentemente? O il prete? Oh, possono dire quel che vogliono, Ma a me il posto non lo toglie nessuno! Ditemi cosa volete che dica, quello dirò. Ma lasciatemi in pace e non guardarmi così, Non sono io l'accusato, sono loro! O lui? Oh, io sono pronto a tutto pur di non rimanere per strada. Sono pronto a tutto! Essere pronto a tutto non basta, mio caro. Ma in che senso devo decidere? Di solito è la coscienza che guida il giudice. Permetta che lo dica. Oh, naturalmente. Secondo coscienza. Ma in questo caso che cosa devo scegliere? Che cosa? Stiamo parlando di un uomo morto, Gonzales! Gonzales! Gonzales! Il caso Cruz López Abarca, signor giudice. Subito! Il signor presidente l'ho fatto sedere al banco della stampa, è stato contento. Invece, il procuratore generale ha rifiutato di sedersi al banco dei testimoni. Voleva mettersi al tavolo della corte. Ma in questo caso allora lei avrebbe dovuto sedersi al banco degli accusati, signor giudice. Con questo no, Mai! Di qui l'uscita, signor giudice. Sì. Ma dove ha messo la cartella con l'atto di accusa? Sì, sì, quella mi occorre. Altrimenti come faccio a sapere chi è l'accusato, Oh, signor giudice, si è messo la guida sotto il braccio. Ecco qui la sua cartella. Di cui l'uscita, signor giudice. Ci vogliono togliere la terra perché non abbiano suolo i nostri passi. Ci vogliono togliere la storia perché nell'oblio muoia la nostra parola. Qui siamo, non ci arrenderemo. Zapata vive e nonostante tutto, la lotta continua. Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, Comando Generale dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.